Siamo in collegamento con Paolo Pasqua, in arte l'ennesimo. Intanto ti saluto e ti ringrazio per essere qui con noi. Ciao Anna, grazie a voi per avermi chiamato, per avermi dato lo spazio. E partirei proprio da una domanda abbastanza a base, quindi quella di presentarti un po', ma soprattutto di raccontarci anche perché l'ennesimo. Praticamente quando ho iniziato a suonare era un periodo in cui mi trovavo a avere a che fare con un sacco di altre persone che provavano a caratterizzarsi con un progetto, a mettere in vita quello che era la loro visione della musica, e quindi comunque era un po', per come la vedevo io, un po' una cosa pazzesca che tutti potessero diventare ciò che volevano con due click. Bastava veramente un attimo per poter diventare qualcuno o far sparire quello che magari tu non volevi che gli altri sapessero, quindi questo praticamente rendeva tutto quanto finto, farlocco, e un po' ci rendeva tutti quanti de nessuno. Però questa cosa invece mi ha, questa paura di diventare appunto un nessuno, l'ho voluta concretizzare e uccidere chiamandomi proprio l'ennesimo, per essere proprio l'ennesimo, cioè più nessuno di tutti. Tu di recente, diciamo nel 2020, hai pubblicato il tuo primo album con la Lumaca Dischi, ma avevi in realtà già iniziato a pubblicare con un primo EP Senape nel 2016, se non mi sbaglio. Ci racconti un po' anche come, diciamo, questi vari progetti, come sono andati e anche come è cambiata la tua musica in questi tempi? In Senape praticamente c'è un approccio molto punk alla musica, non solo alla musica come scrittura delle canzoni, proprio intesa come produzione, pubblicazione e fruizione del progetto. Cioè io ero nelle villette, nelle case degli amici, con la chitarra, magari c'era uno che aveva un microfono e una scheda audio e recavamo una parte, e poi dopo, un po' per una cosa e un po' per un'altra, abbiamo deciso di chiuderle queste cose che avevano registrato in un disco, senza alcuna pretesa, perché super underground, super per gioco. E appunto anche le serate poi venivano viste così. Era bello perché c'era proprio lo spirito di andare a suonare. Per esempio io, che facevo chitarra e voce ai tempi, andavo a suonare col gruppo che faceva metal. Quindi si creavano queste dissonanze stranissime che però erano anche molto divertenti, perché magari c'ero io che cantavo la canzone triste così, e poi c'era il gruppo che spaccava i piatti suonando fortissimo. Per questo anche Senape. Cioè Senape praticamente nasce da una frase che ha detto il fonico in studio, che praticamente mentre stavano registrando, facendo e dicendo, abbiamo messo un sacco di tracce in una canzone. Questo mi ha fatto che era troppo per lui, era come mettere troppa senape in un panino. Però a me la senape piaceva effettivamente, quindi mi piaceva proprio quello come concetto del disco. Quindi è un esubero di idee messe tutto quanto in un disco, poco pensato, capito? Molto punk. E invece il nuovo è una cosa molto più intima. Penso, è una cosa che anche ascoltando il modo in cui canto nelle canzoni, ovviamente queste cose me ne sono reso conto dopo un anno che è uscito il disco, no? Parlando, facendo ascoltare poi agli altri, soprattutto perché poi un disco secondo me prende vita quando gli altri lo ascoltano, cioè la sua vera essenza si sprigiona quando tu lo ascolti, tutti lo ascoltano e poi loro dicono cosa ci hanno visto, se no rimane nella tua testa e rimane sempre quello. Comunque insomma nell'altro disco c'è una visione molto più intima della canzone, un po' per i posti in cui l'ho scritto, un po' per quello che... Non avevo una visione di dove dovevano arrivare le canzoni, no? A livello di dove dovevo suonarle, però sapevo che volevo metterle su internet, farle ascoltare, e soprattutto comunque un'espressione mia personale, quindi una cosa molto me per me, che poi alla fine agli altri pure è piaciuta, è arrivata, e questo mi è piaciuto molto. Comunque un po' più ragionato, diciamo, più introverso l'ultimo disco. Ecco, l'ultimo disco che appunto si chiama Tratto da una storia vera, ed è anche un disco scritto a cavallo tra vari posti, diciamo, no? Tra l'Irlanda, Cosenza e poi un po' di passaggi in giro per l'Italia. Ora per esempio siamo in collegamento che sei a Roma. Insomma, ti chiederei anche un po', chiaramente non tutta la storia che racconta quest'album, che poi chi ci ascolta si potrà ascoltare, però anche appunto un po' qualcosina di quello che ci raccontano, cioè questa storia vera, questo racconto. Come nasce e che cosa vuole raccontare? È una storia che è praticamente la storia che può essere mia, come però può anche essere di tutti, nel senso, cioè, per esempio l'ultimo brano, ne parlavo ieri con questi amici, che quelli che mi hanno fatto fare tardi, quelli che hanno la colpa di questa mia voce un po' così di oggi, insomma, che dicevano che l'ultimo brano è, che si chiama Romano Marino, questo ragazzo che quando eravamo piccoli abbiamo iniziato a suonare insieme, poi per una malattia rara è morto. Col passare del tempo, quello Romano, no, è diventato un concetto che praticamente non è più soltanto lui e la storia sua, o la storia del mio rapporto con lui, bensì quello che magari ogni persona può avere un romano, una persona che magari quando erano piccoli è venuta a mancare oppure aveva iniziato a suonare. Quindi già la storia è la mia storia, quindi quello che ho vissuto negli ultimi anni, tipo i viaggi, sono andato a vivere in Irlanda, ho vissuto in questo posto pazzesco di 300 persone in mezzo al Connemara, dove praticamente suonavo per cercare di avere ancora un contatto col mondo, capito? Di immaginare questa musica quando sei andato a produrla. E quindi comunque è un po' la storia di quei giorni là, la voglia di tornare pure in Italia e continuare a suonare, girare. Questo è altre cose, comunque è un po' una storia, un racconto di quello che è successo in questi anni. E questo era appunto Freddo Cane, che ci siamo appena sentiti, e ti chiederai anche su questo di raccontarci un po' cosa racconta. Sicuramente una canzone anche molto a tema, poi anche coi tempi della pandemia, no? questo tema dell'ansia, della tachicardia, che sento molto condiviso in qualche modo. Esatto, è questa la canzone, è praticamente una chiacchierata con se stessi in una di quelle sere in cui non riesci a dormire e devi fumare per forza fuori dalla finestra guardando il cielo e chiedendoti ma perché? Perché? Perché sto così? Che sta succedendo? Dove sto andando? Poi alla fine ti rendi conto che è bello non tanto dove devi andare, ma devi imparare a goderti il viaggio, devi respirare più spesso, devi ricordare che quello che è stato bello perché c'eri, e quindi non c'è da soffrirci e bisogna andare comunque avanti. Quindi comunque la canzone sembra una roba un po' malinconica, perché comunque parla appunto dell'ansia, però è una promessa per un futuro migliore, no? Quando dice la parte alla fine che per fare un sorriso non dovrò più bere, perché alla fine comunque pure drogarsi, bere, quant'altro, gente spesso, ma pure io intanto bevo, capito, passo la serata che sono allegro, proprio dopo il giorno dopo vieni qui e faccio che palle. Però capito, invece secondo me cercare di arrivare al momento in cui sei psicologicamente tranquillo, soddisfatto di quello che hai, senza pretendere, cioè avere sempre la smania di volere di più e soffrire di questa cosa, quello vuol dire essere allegri e felici. E magari c'è, cioè, in questa canzone un po' me lo auguro, come lo auguro a tutti quelli che soffrono e che sono stati male sia per la pandemia, che ci ha aumentato questa situazione di stress ed ansia, sia in generale per chi ne soffre, perché è una cosa che limita la vita proprio. E abbiamo nominato la pandemia due volte adesso, ma mai nello specifico. Ora ti farei anche una domanda su questo, no? Cioè su come effettivamente sia andata. Di questo ne abbiamo parlato molto anche su Radio Città Fucico, cioè dell'impatto della pandemia su chi fa musica, su chi la musica la produce, insomma su tutto il mondo che c'è intorno alla produzione artistica. Poi quindi ti chiederei anche com'è andata in qualche modo con quest'anno di pandemia. Allora, paradossalmente questo è l'anno in cui ho fatto più cose nella mia carriera musicale da quando ho iniziato. Perché? Non perché c'è stata la pandemia, ma perché tutto quello che magari vedete in un progetto musicale, molti già lo sanno, però magari per quelli che non lo sanno lo racconto, è una roba che c'ha almeno un anno e mezzo di lavoro dietro. Quindi purtroppo quando succedono queste cose tu non puoi mai sapere, ormai hai programmato l'uscita, quindi devi uscire lo stesso. E nel mio caso c'è stata questa uscita del disco, ho trovato un'etichetta discografica che mi ha accompagnato in questo percorso. Attualmente sono qui e sto conoscendo persone, ho fatto dei live basandomi su delle cose diverse che non avevo mai fatto, tipo magari usare sassofonisti, computer, batteristi che fanno determinate cose, quindi comunque ho pure sperimentato in un anno che comunque non ti permetteva di fare niente in realtà. Quindi nel mio caso mi ritengo abbastanza fortunato, perché non ho avuto grosse perdite, mettiamola così. Però ci sono altri musicisti, che anche colleghi che conosco, che hanno fatto investimenti grossi, magari per fare dei palazzetti, per l'uscita di un disco, per pagare i musicisti, ufficio stampa, cose del genere, che si sono trovati con le date tutte annullate, e però con le robe da pagare. Per non parlare poi dei musicisti proprio, che proprio dei musicisti, nel senso quelli che per campare fanno i turnisti o lavorano nei club come musicisti, jazz o cose del genere, loro ancora peggio, perché almeno magari qualcuno che fa l'artista e ha un proprio progetto discografico può guadagnare in altro modo, magari facendo dei libri, come nel mio caso magari facendo un merchandising, che invece è un musicista laureato, diplomato in conservatorio, se non suona non mangia. E questa è una cosa che non è ancora, adesso per fortuna un po' si stanno smuovendo, o anche i tecnici del lavoro. Avevo iniziato a lavorare pure come tecnico audio qua in Calabria e stavo per fare un corso qui a Roma, dovevo venire a vivere a Bologna, e quindi cioè, la vita si è bloccata per tutti, ma per alcuni di più. Cioè, per alcuni è stato non solo un blocco, ma proprio un salto all'indietro. La mia visione è questa. Io nel mio caso è andata bene, però per i professionisti che avevano più roba in gioco è stato un problema molto molto grave, anche perché non c'è stata attenzione dietro sufficiente, secondo me. Ecco, ti faccio un'ultima domanda molto veloce, poi dovremmo salutarci, però tu menzionavi appunto quest'ultimo progetto del merchandising, e quindi ti chiederei un po' che cos'era e se è ancora attivo, e poi anche il senso, no, dietro a questo progetto. Allora, ho stampato diversi gadget che fanno parte, sono praticamente una proiezione del disco nel mondo reale, per riuscire a battere la barriera del freddo dell'internet, del distacco che solitamente si abbatte con dei live, no? Io tra l'altro adoro i live piccoli, cioè mi sarebbe piaciuto girare magari pure negli appartamenti, nei giardini, facendo dei live piccoli per le persone che magari conosco in giro per le città. Quindi, non potendo fare niente di tutto ciò ed avendo un disco che è venuto al mondo, volevo comunque farlo arrivare alle persone anche a livello fisico, visto che l'etichetta ha deciso di non stampare dei dischi. E non so il motivo sinceramente, ma me lo posso immaginare, comunque essendo nel 2021 i dischi non vendono, quindi. Però comunque io ho deciso di stampare di tasca mia questo merchandising, che erano proprio, per esempio c'è una canzone che si chiama Camomilla, ho fatto stampare delle bustine di camomilla e ci ho messo dentro appunto la camomilla, ci ho fatto dietro al posto di Bonomelli, ci ho scritto il nome del disco, la tracklist, poi delle matite, gli accendini, poesie, testi, cioè cappellini, ho fatto cioè questi pacchetti che praticamente erano un pezzo di me, ne ho stampati 150 o 200, comunque non tantissimi. Quando li mandavo facevo qualcosa di veramente personale a ogni persona che me lo chiedeva, perché comunque alla fine io li conosco tutti, no? Cioè, quelle persone che magari in giro per l'Italia ci siamo incontrati suonando, ci siamo incontrati per qualche motivo e mi hanno voluto bene. Quindi era una cosa molto personale, era veramente un modo di venirti a toccare e dire ciao, come stai? Quindi è stato questo. E sì, ancora all'attivo, ne sono rimasti 6 pezzi o 7. Va bene, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti saluto e ti chiedo ancora di dire a chi ci ascolta dove può trovarti, insomma, su che canali seguirti. Mi trovate su Instagram come L'Ennesimo, su Spotify come L'Ennesimo, su YouTube come L'Ennesimo, ovunque come L'Ennesimo. E vi ringrazio tantissimo per avermi dato questo spazio, è sempre bello parlare con te e venire a Radio Fucico. A presto, grazie, ciao. Ciao.